vento ne hai? Cosa vento? Ehi, c'è un vento qua, buio. Ma non lo so, sinceramente, mi stavo cucinando sino adesso. Anche io. Anche io. Sto preparando i fregattini a Filippo questa sera, qui sono freddi. E poi altra roba questa notte. K. Marco, c'è ancora drumito. No, io sto cucinando ali di pollo con i peperoni. Perché mi piacciono fritti, capito? I peperoni, mi piace di mangiare fritti. Più saporiti sono. Li faccio rapprendere e poi stanotte me li mangio. Domani mi sembra ci abbiamo pollo, non so come. Sono impiegato, non so come. Ho visto la comprata anche i peperoni perché mia moglie li fa spesso. Piacciono ad aria. E carne bianca ci vuole già, non si può mangiare mondezza, carne bianca e molte verdure. Sono andato a fare la spesa stamattina, cioè questa verdura, ho preso un sedano che per carità di Dio, ho preso dei polpi a fare la insalata, bellini, ma non. Ma la verdura fa proprio schifo, lattuga, sedano. I citroni non ne parliamo, tutti bufali, so. Ma non è più stagione adesso. Claudio, lo sai dove la compri la verdura buona? È presente per andare a casa dove ci sono le corna, prima della rottatura c'è quella propria verdura. Io compro sempre, io ho comprato anche oggi. Ho comprato citrioli, ho comprato pietole bellissime, appena fatte, appena tagliate, si vede quando c'è il gambo, poi già le conosco, non è che sia. Peperoni belli freschi, pere di tutti i tipi, ci sono le pere cuce, ci sono le pere con le uova, che sono buonissime. Ci sono una frutta è tutta quanta, la verdura è tutta molto fresca, perché mi gira un bel. Per la lattuga devi vederle lo stesso, sono pulite e pulite, non c'è una foglia che si agguasta. Si vede quando qui sono tagliate da poco, il gambo sotto è bello verde. Almeno che la puliscano e poi li tagliano il petto, però già si vede anche quando li fanno quello, io glielo conosco, non so com'è. Ma lì si vende, si chiama, aspetta come si chiama, calamaro, una cosa del genere, moscardino. Sì, quello che c'è all'angolo alla fine via Grazia Deledda, con la rotonda che sale lì da via Prati, ci ho comprato anch'io qualche volta. Non mi fuori mangia, io se la voglio comprare fresca, la verdura c'è Antonio, il chiosco di Carbonassi, capito? Però allora spina a prendere altra roba, mi serviva la roba congelata, ho preso tutti i condimenti per fare il risotto, pasta al cotto, le vongole, tutta quella roba lì, ho messo tutta in freezer, capito? Perché poi sabato andiamo in campagna e quindi me la porto là. Però la verdura non mi piace. No. Prima era molto più bella quando era qua a Carbonazzi Mura. Non è via Venezia, la verdura non mi sta piacendo per niente. Io anche l'altro giorno ho preso i cartoncini lì, ma erano belli, proprio si vedevano freschi. E ho fatto il riso con lo zafferano e i cardoncini con i funghi. Ah, milanese, là. Ma dovevi sentire che sapore. Gli assomboni cardoncini. Sono antuna praticamente. Ho risotto l'aria a comprare quei porcini surgelati, quelli della, mi ricordo di che marca so, buoni. Congelati, li fa scongelare, lava, poi li fa col risotto, ma sono buoni anche con i cardoncini. Ho preso anche io i funghi, però i champignon perché li deve fare in tegame. Capito? Un po' di roba per anche per fine settimana, portare in campagna. Ma ti ripeto, la verdura fa schifo. Io ho preso anche una lattuga, certo, mi sono messo a pulirla, ne era in una girampata da metà. In sedano perché devo fare il. Mi serve per il polpo, per tutto. Ce ne ho buttato la metà. Poi si viveva anche per il brodo, infatti ho detto non ce lo dovevi buttare che quella che la facevo per il brodo. Non mi piace bannuta, la verdura non è bella. Bisogna trovare, lo sera facciamo, vabbè, dalle dita, se no però devi andare presto, dalle dita, comprare Valeriana, presto presto e la trovava bella fresca. Io non ci sto andando lì, alle dita non ci vado, però vado lì a Monte e l'altro giorno che era tardi, sono andato via a Pascoli, per carità di Dio. Non voglio dire nulla, ma cazzo, mi ha dato queste terre che facevano l'asca, aspre, le mele che non servivano. Io l'ho comprata anche in grossa quantità, perché sei benissimo che io posso uscire limitatamente, quindi quando compro, compro all'ingrosso. Ti devo tirare qui perché non sono buone. No, tu mangi una pera e stai mangiando una fritta, tu spieghi la palla e senza sapore di nulla. Invece io le ho prese, è praticamente troppo corte, butto fuori a Macedonia, pere, pesche e melone, ho preso melone, cotto, l'ho dovuto tutto pulire, tagliare e fare la Macedonia, perché sennò era tutta roba a buttare. Ah, quello di fronte ovviamente a voi, io, sì, ma già, quello ci va un bel di gente perché mi sa che la roba costa poco, però non ha roba di qualità, me l'ha detto anche mia moglie, una volta ci è andata, ha detto che non ha roba di qualità, capito? La verdura fresca, buona, sai dove la prendo il lunedì, in quantità, anche per tutta la settimana. Questa insegni lì dove c'è quelli della trucca, portano la verdura fresca che fanno loro, e ti dico che è buona, costa poco ma è buona, fresca. Mentre lì ci mi pare che fa mondezza. Io lì prendevo il formaggio della cucca, poco e buono, piccolino. Ci va a fare il pastore. E loro lo fanno già, è produzione loro quello. Capito, con la produzione loro, hanno verdura, se vedi i carciofi, quando è il periodo dei carciofi li prendo lì, mia carciofa, il gambo grande ma dolce, dolce, dolce, tenero, tenero, è una roba buona, sì, formaggi, ho preso anche la salsiccia l'anno scorso, ma c'è una roba buona qui, l'unica verdura che prendo lunedì è lì, gli altri già hanno le celle frigo. Quei grossisti, quello lì che devi a Pasqua, quello è un grossista, capito? Ha le celle frigo, quindi la verdura arriva da fuori, la mettono in cella frigo e poi la vendono, ed è mondezza. Io ci sono andato una volta, non ho fottito più. Sì, non matura, ma se la lascia fuori, con la cigua fa parte da cruda che si guasta completamente, non va la maturazione, si guasta e basta. Perché le prendono in grandi quantità pensando che riescono a venderla matura, buona, invece la bua diventa duvara, proprio secca, non c'è niente, soprattutto le pere vogliono buone, vogliono mature, ma allo stesso tempo vogliono una maturazione naturale, capito? Se invece tu la metti in cella a frigo e non matura più, non serve a niente, e vabbè. Comunque, questa notte già ce l'abbiamo a mangiare, adesso che ne so, e se me lo dici sono appena, non mi finito, dopo aveva qua il colicato, non so, brandino, anche se un viaggio le stavo preparando il mangime, ma se l'ho fatto la testa, ma poi se di nuovo colicato, c'è un bel vento già, non so che vento è, mi sembra greccare. Becco maestro, boh, si muovono gli alberi sia di fianco che quello centrale grande, e beh, pur freddo. Poi io lo stacco più là, se no la dottoressa non ce n'era di vento, pur nulla, proprio niente. Se non è che mica c'è, basta, perché se no, che qua non mi sono accorto di nulla, come se li accorto anche dalle tende solari, perché con io subito le tiro, quando c'è vento le metto dritte, capito? In modo che mangia la fredda una volta che mi ha rotto i braccetti, 70 euro per due braccetti, non mi piace. Quindi si è andato dove? Si è andato dove? No, io i ganci dei laterali li ho cambiati, sostituiti. Hai visto quei cavallotti che ci sono? Mi sono fatto fare i cavallotti così in ferro, tassellati, perché i ganci me li ha rotti due volte quelli che vendono loro. Il cavallotto è in ferro e non me li fasciano, i laterali. Quella centrale, quando non c'è vento, faccio come fai tu, la apro con i bracci lunghi. Quando c'è vento la metto attaccata alla ringhiera con i ganci su, capito? Ben tirata e non le fa niente. Qui se piove non entra acqua e non fa niente. Dove lo faccio io? Ma non ne sono accorto, se no avrebbe fatto casino qua. Ma non vi metti lei tu? Se vi affaccio te lo dico subito. Non ce n'è, non ne sento nulla. Non vedo che sia lì che debba rimanere ancora qua. Perché la zona dove sei tu, perché è in altura. Comunque, niente, bisogna saper comprare, Claudio, perché quelle pere io che ho preso sino adesso, le William, quelle lì sono mature, ma non mature troppo mature, non sono mature da fare schifo, sono mature al punto giusto, che tu le tagli e la polpa è bianca dentro, non è marrone, è bianca. E le ho pagate a 99 centesimi, mi hanno giubilato un 4 kg, lo sai quanto sono sparite? Viene mio figlio, ci rimane a Gogo, viene Maurizio, mio nipote, ci rimane a Gogo, non durano niente quelle pelle, sono troppo buone, ti sto dicendo che sono anche troppo dolci per me. No, ma le pelle piacciono anche a me, però ti ripeto, devono essere non crude, capito? A meno che non sia questa bella gamugina, quelle piccoline, quelle già mi piacciono un po' dure, capito? Le mangio. Mi sto guardando già, boh, perché è anche dall'altra parte del poggiolo, le palme stanno impazzendo, quelle di Beccia forse non tocca, non lo so, ma ha dato acqua domani. Potrebbe che stia caricando di Beccia, è un bel forte qua. Io me ne accorgo poi quando scendo giù dalle antenne, c'era la 510 che era piegata in due, già c'è il vento, ma lì è più riparato. No, Claudio, adesso c'è anche qua un po', che l'ho visto anche io adesso. Magari sia un po' più chiuso, ma qua da Alghero alle Beccia fa paura qua, figlio di maestrale. Mi ha sganciato due volte il dipolo che è attaccato col nylon e i tornichetti fatti tonto. È un bel forte. Vabbè, ma è Rata Pignara? Non sei scendato ancora? Oh, pipistrello di scoglio. C'è qualcuno che sta modulando sotto fondo, così? Sì, chi è? Chi è Avana? Ho sentito io sì, chi è? Basso, sentiamo 5, non so chi è. Vabbè, se vuole entrare siamo qua, ci fa piacere. Dai, esce. Mamma mia, come fai? Ma stai facendo i turni praticamente normali, dalle 10 a mezzogiorno a casa, alle 5 alle 7. Chi? Tu. Oh, io ancora non sono rientrato, te l'ho detto che non sono rientrato ancora da fuori. E quindi stai facendo i turni a casa, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 5 alle 7, non puoi uscire. Ah, sì. No, non abbiamo capito, ma siamo alla foto, no? Sì, quello lì sì, vabbè, normale che sia così, se vuoi il medico fiscale l'ho fatto fare a casa. No, io stesso quando l'ho fatto 3 mesi, una volta per l'occhio, l'altra volta per la spalla, mamma mia, mi annoia. Meno male che uscivo la mattina alle 8:30, con il mio caffè, il giornale, sigarette, poi rientravo, portavo il cane e alle 10:15, 10:20 ero sempre già a casa fino a mezzogiorno, poi riuscivo a mezzogiorno e 10 e rientravo a 1 e basta, poi la sera non uscivo più, la sera no, non esco mai, però la mattina devo uscire per forza, o a fare qualche commissione o a prendere qualcosa, capito? No. Non mi piace stare a casa la mattina. Stamattina abbiamo iniziato questi lavori, cazzo, l'autoscala, ma c'è sempre vento. C'è vento, devi rimanere massimo a 4 metri. Non puoi sollevare di più perché oscilla troppo. È un casino. Non c'è vento, non fa. E cosa stavo facendo? Aggiustando le terra. No, abbiamo scrostato tutte i sottopoggioli, poi stiamo togliendo tutte le cose, c'erano delle aiuole in resina attaccate sotto le finestre con dei lastroni di cemento, le stiamo tutte eliminando, capito? Perché dobbiamo fare facciate e quindi stiamo eliminando tutta quella roba lì. E poi altri lavori di lampadine, abbiamo cambiato, messe tutte quelle a LED, alcuni globi nuovi, gli altri tutti puliti e ripiazzati, quindi certo cancelli, le porte in ferro delle caldaie, un paio di androni e un bel di cosette stiamo facendo là. Ma sei da solo? No, siamo in tre. Sempre condomini? Sì, sì, non sempre condomini, solo il nostro condomini. Il nostro e poi a volte l'amministratore, se ci sono lavori di altri condomini, ci chiamano, noi ci dedichiamo al nostro, cioè al nostro è grande, ma grande. Un bel. Mi si girano anche, ti devo dire che ho molta sincerità alle scatole, perché se non fai tempo a mettere da parte sono lei che devi tutto. Allucinante, proprio allucinante. Adesso mi c'è la riunione, oggi cos'è? Martedì, giovedì, alle 18 al Precalo Felice, per deliberare le facciate. Sono tre preventivi, ti dico solo che il più basso è di oltre 400.000 euro. Ma non mi aiuta il comune? Il comune ci aiuta, io già ci aiuta. Anche io già siamo disimpirati. C'è gente che sta bene qua già, gente sta bene, però è un corpo un bel grosso, ma grosso, sono alte, conteggio non conviene, assolutamente, quindi si lavora con l'autoscala, prima la facciata, sono tu immagini, la facciata all'autostrada è una, i due laterali facciamo un'altra perché sono più piccole, sono due facciate. Quella interna, sto parlando della torre dove abito io, quella interna sono già tre facciate, poi vai all'interno ci sono due facciate grandi da oltre 50 metri, più una che sarà sì, alta 30, 27 metri, più larga almeno altre 25-30 metri. Fatti il conto tu cosa ci vuole con la Toscana. Io non ho capito, ti stavo dicendo, chi lavora con te sono condomini oppure gente esterna? No, è una... sono due che abitano qua del condominio, uno aveva un'impresa che ha chiuso, ha cessato l'attività ed è rimasta l'autoscala, tutto ponteggi, materiali vari eccetera, e quindi abbiamo deciso con l'amministratore, anziché chiamare un'impresa esterna per fare i lavori, li facciamo noi, capito? Io mi occupo anche degli interni però, cambiare scaldabagni, rubinetti, cose così, eccetera. E loro si occupano molto della parte edile, però io le do una mano, capito? Perché gli interni, Claudio, non sono di proprietà da fare, non è roba condominiale. Non gli interni come appartamenti, ognuno se lo fa per i fatti suoi, poi ad esempio a noi ci hanno già chiesto due persone anziane se le verniciamo l'appartamento. Però non adesso, in primavera di nuovo, capito? Adesso no. No, interni come parlo di scale, interni di scale, no, androni di scale. Per esempio il mio l'abbiamo già fatto, dove abito io. Adesso dobbiamo fare l'altro androne dell'altra scala G, poi dobbiamo fare due androni della E, mi pare, in fondo. Androni, ingresso delle scale, capito? Chi è che sto bisogna vedere? Aiuto, firma. Già, tempo di verità io non ho sentito niente, bucchie. Ha detto bisogna vedere però. Beh, se bisogna vedere, venga lui a vedere, cosa metti? Io so quello che devo fare, poi se lui deve vedere qualcosa venga qua. E chi è questo fischi? Sta facendo fischi? E niente, capito? E via. Poi la prossima settimana devo venire dal comune, ho già fatto ispezione l'istituto zooprofilattico, ci abbiamo quattro palme completamente, l'hai mai visto il punteruolo rosso? Te lo mando, la larva del punteruolo. No, la larva non l'ho mai vista, però ho visto le palme che hanno demolito qua, almeno prima facevo la palla, quando pioveva di vero mi andavo di sotto col cane, adesso va con quella. Figurati noi quattro, due grandi ma alte, che ne stanno scendendo a pezzi, e due piccole che avevano piantato un 6-7 anni fa, però togliamo anche quelle. Adesso ti mando la larva del punterello rosso, ma come ne è caduto il pezzo alla palma proprio dentro, ma è un verme gigante, gigante con la punta rossa. Mi stava dicendo con l'istituto zooprofilattico che praticamente quelle sono le larve, e poi diventano nere, come tipo un calabrone, no? Di quelli grandi, che noi chiamiamo garrametta, quelli lì, e volano, e se ne vanno nuovamente a deporre le uova nelle altre palme, capito? Mi adesso te lo mando. Ma dice che a Marta non sono la palma a femmina, vero? Il maschio non lo tocca. Mi senti? Sì, ti sentiamo. Sì, qua mi ha dato praticamente, mi ha detto la stessa cosa anche quello, che il punterello rosso attacca le palme che fanno ghiande, capito? Che danno le ghiande, diciamo, delle palme che non le danno le ghiande, e altre che danno le ghiande, e loro attaccano proprio le nostre, purtroppo due, tre sono, hanno le ghiande attaccate, gli altri, l'altra no. E le femmine sono? Dove c'era la palma, erano tagliata, stanno crescendo le palmine piccoline, le invece come cadevano i noccioli delle palme, e sono cresciute le palme, e io me ne sono preso una e me l'ho piantata nel vaso, sta crescendo. Ehi, ma stai attento già, cioè mettila in un posto, ma ti ramando, te la posso vedere, mi aspetta che prendo gli occhiali. Adesso mi senti? Sì, adesso sì, chi sei? Come si sente? C'è un po' di fischio e con un po' di eco. Poi alto è l'eco. Ora sta descando. Qua ingrandiscila già la foto. Ce lo vedi il verme nella cosa della palma. È proprio completamente una cosa allucinante, per carità. Adesso quanto ci mettiamo a mandare le cose, non avere problemi su WhatsApp. Ma sta protestando qua? Sì, ma ci vuoi dire chi sei? Tu sei Claudio. Guarda, io non ti capisco, sei tutta fischi, non lo so. No, mi senti adesso? Tutta fischi sei. Che le ho mandate già? Guardale. Fanno schifo, per carità, qua non ce n'è una in terra come è caduta la palma, e l'altra è proprio nel tronco della che è caduto dalla palma, va. Non stai uscendo? Già l'ho vista ora all'interno della palma, già l'ho vista, sì. Quello lì io li ho visti. Non so se mai visti sopravvissuti, quelli che si mangiano le larve, che è schifo, guardi. Io ho visto una volta, non ho guardato più quel programma, perché fa veramente schifo, veramente schifo. Ma lo sai l'odore che fanno quegli affari? Infatti mi ha detto, quando vengono per tagliare non state vicino, perché c'è un acido allucinante, tutto un odore, ma puzzolente, un odore di acido. Allora, l'hai messo a posto questo microfono? Non stai uscendo? Ma chi è già? Hai capito tu chi è? Io non ho capito. No, manco io. Mi sembra fatto una riserva, qua. Però non sono sicuro. Non mi dice una riserva, Nobi. Danilo sono. Non ho capito. Che sono Danilo. Danilo, dove stai modulando? L'amico di Luca Flipper. Danilo. Ma ci conosciamo noi? E io. Non mi ricordo, Dani, scusami, ma sono un po' smemorato in questo periodo. Gianni. L'amico di... L'amico di... Di Filippo. Di Filippo. Sì, cucù. Lo cucù. Ah, ho capito, ho capito. Mi dicevi... L'amico di Filippo. Non avrei capito prima. Comunque... Cosa c'ha questo microfono, Dani? Perché non esce? sbaglia tre connessioni e si inchioda e si affischi e poi si inchioda, non lo so. Dove sia Sassa, devo fare l'ottore. Quando gli ha preso di là, Marca? Io invece l'ho visto proprio il puntello rosso, l'ho visto quando hanno tagliato la palma, erano tutti avviati dentro la palma, l'hanno bucata e erano tutti avviati. Sono usciti fuori come con la motosega, hanno tagliato la palma. E diciamo, queste sono larve. Se guardi bene c'è il buco, è uscita dentro il buco, sono tutte bucate e sono cadute le palme, no? I bracci delle palme in terra, perché lui mangia e la indebolisce, quindi mette la sola. E sono tutte dentro. Poi in effetti sono venute quelle dell'istituto profilattico, che ci vuole autorizzazione per tagliarle, no? E dargli vicino. Devono fare il foglio per la demolizione, per lo smaltimento. E quindi stavano controllando, ne ha preso una con la pinzetta, che schifo, mamma mia, hai tanto sono grandi, ma grandi, al telefono la vedi bene, fare un siringone di giganti. Sono ciccioni, quelli mi fanno rimate, che schifo. Ma l'ho visto a quel deficiente, a quelli sopravvissuti, esce il sughetto, esce, mamma mia. Sono pieni di proteine, guarda lì, un odore che fanno, ti dico, guarda, allucinante, hanno fatto la prova per vedere se ce n'erano, da che punto era, ne hanno tagliato un pezzo a metà, è tutta piena, tutto pieno di questi, va tutto bianco dentro, proprio stanno mangiando, a tutto mangiare. E siccome è alta, la devono tagliare prima che ne cada la sola e faccia danno, perché sono i lampioni, ci sono altri alberi, capito? Sì, tu evidentemente l'hai vista già, la larva completata, quello è la larva, e continua a mangiare, poi diventa praticamente nera e vola, capito? Come te la mochami, come il verme della mosca, no? La stessa cosa. Allora, nella piazzetta che c'è vicino a casa ce n'erano due di fatto. Le hanno tutte e due disinfettate, sono venuti con un apparecchio che ci aveva la giraffa e dall'alto buttava questo medicinale. Le hanno tutte e due medicate, bene, intanto non ce l'hanno fatta lo stesso. Se le ha smontate dal centro, hanno cominciato a cadere, come ha detto tu, i rami. Poi la tutta svoltata, però te l'ho spogliata completamente. Infatti sono venuti quando ne sono venuti i rami in terra, allora sono venuti a toglierli, capito? E non ve l'hanno manco giù. Sono venuti per medicarla, ripeto, però non ce l'hanno fatta, si sono fermati sopra nella piazzetta dove c'era la fontanella, ci avevano questa pompa lunga lunga con la giraffa, tipo quelle per mettere il calcestro, è la stessa cosa, e spruzzavano all'interno della palma, ma è più la palma, quando l'hanno tagliata c'erano tutti i risulti di sopra. E quello è il problema, già, capito? Siccome sono i vermi, queste larve, il topo si fa un nido e si mangia le larve, capito? Ed è una cosa molto pericolosa. Infatti noi siamo pieni di gatti qua, però ultimamente ne abbiamo visto uno morto di topo, sicuramente i gatti l'hanno ammazzato, ma non ce n'era, non ne abbiamo mai visto, io non ho mai visto un topo qua in tutti gli anni che ci sono, capito? Però con le palme bisogna stare molto attenti, Oh, questa è da tagliare subito, da tagliare immediatamente, perché sennò ne scende da sola e fa di buru danno, perché se cade verso l'autostrada, perché nel giardino ho l'autostrada, capito? Si può rompere la ringhiera e cadere sopra qualche macchina, invece è meglio. No, ma vuol dire già, se non ha attecchito la medicina, vuol dire che era già piena, vuol dire che all'interno c'era già la larva, capito? C'era già la larva e quindi non le fa niente la medicina. Stava dicendo proprio all'amministratore, quel dottore dell'istituto zooprofilattico. Non l'abbiamo avvisato subito. Io, come l'ho vista, che è caduta la prima palma, il ramo della palma, ha già fatto la fotografia e aveva già mandato all'amministratore. È venuto subito, mi ha detto, minchia, rassegnati. ha fatto subito la segnalazione, sono venuti, hanno controllato e adesso gli abbiamo dato l'autorizzazione per tagliarla e per smaltirla, perché va portata all'inceneritore, capito? Ma poi smaltire così no. Sì, se non smaltisci così, se ci sono le larve e sviluppano, contagiano le altre. Ma sembra una cosa strana anche che un albero secolare cosa riesca a demolirlo un vero, ma te l'immagini tu? Se li svuota va al centro, li svuota va al centro. Aspetta che un attimo lo telefono. Ehi, ehi. Danilo, hai messo a posto questo microfono? Danilo. Danilo. Danilo. Caggiuto da letto. Dove, ma troppo. No, c'era Danilo che c'è il microfono che non le funziona. E quindi non so se l'ho messo a posto, Gianni è andato a rispondere un attimo al telefono. Andrà bene, andrà bene. Questo c'è il vento, c'è. Domani mi sa che la quella aria. Quando sta vicino a Gianni dice che lui non li ha giù. Troviamo un vecchio anche allucinante. Dovrebbe essere mezzo libeccio, mezzo greccale, sì, sta caricando, non hai visto a Cagliari, nella zona del Campidano sta piovendo a dirotto, sta facendo un casino, ha dato anche l'allerta meteo, noi siamo un po' più fortunati, siamo vicino al mare, non lo so, faccia quello che vuole, oramai non me la fotti più nuda, cioè non mi bagno più. Ah, bello, c'è l'ombrello, domani a caso devo uscire. Mi porto l'ombrello domani e mi porto qualche cosa, ci vediamo. Il bisogno non vai. Sì, l'ombrello, la gente deve vivere quanto a me. Se la vedete, Dio Claudio, devi fare il sacrificio. Comprati una di quelle macchinette coperte, senza patente, piano piano, stai attento, puoi andare dove vuoi, guarda, dentro Sassari, tu ti muovi tranquillamente, capito? Se devi andare a Fredanieta puoi andare, perché c'era un mio collega che non ha patente, da Sassari veniva a Sorso, tutte le mattine lui da Sassari veniva a Sorso, faceva San Camillo, piano piano, faceva 60, 70, mi sembra quella moto, quella macchina lì, però bella, coperta, riscaldamento, tutto va, tutto. Non è così facile, no? Mi hanno fatto un mese, posso vedermi, sì, hai capito? Mi ha detto, dice, è tutto positivo, mi ha detto, dice, devo andare in mese di marzo, e tutti i resti mi hanno detto che fine fanno, e così hanno vinto tutto assieme, e tutti i resti ce lo pagano dentro un sacco di roba, io ho detto, forse non ho capito niente, neanche lo so, lo stipendio c'era ogni mese, quindi, e quindi sono bloccato per quello, mi devo regolare così, mi sto pagando la luce. Come adesso il prossimo mese devo pagare la tasi, che sono 200 euro, e dopodiché devo mettermi i soldi da parte perché quella a fianco in Campagna Rossa ha fatto un ponte lì, ha speso su e quindi poi da parte mia, lei, di mio fratello e di Giovanna, e quindi non è che adesso comprare la macchinetta 50. Se non arriva qualche miracolo che aggatta il vinci o qualcosa, se no viene un bel male, perché adesso questa reddito di cittadinanza vogliono fare come la carta vecchia, non puoi comprare sigarette, non puoi comprare alcol, devi solamente comprare roba da mangiare e basta, e uno si è comprato la testa sua e devi vivere così, puoi pagare le bollette, hai capito? Si sono matti, insomma. Lo so, nella tua situazione è un casino anche a prendersi un impegno del genere, ci vuole un fisso mensile per potersi mettere una rata piccolina e prendertela e pagarla, lo so, lo saccio, però quella è l'unica soluzione, il povero Giampaolo ce l'aveva, adesso ce l'ha la moglie, credo. C'era la moglie, però lui non la guidava, c'aveva l'app 50 a coperta, usciva con quella lì. E anche quella è una soluzione, col cassone chiuso, non ha conto in fondo, puoi uscire. Che aspettina, senza macchina è un casino, ma soprattutto tu non hai patente, perché se la macchina se ne sta arrivando in garage. Sì, io lo so. Ma adesso mi tengo delle pille patenti, capite, adesso abbiamo quella merda. Poi una volta prese patentino per la macchina 50, poi tanto io con il reddito di cittadinanza non la faccio proprio un cazzo, cioè andare così a tirare 780 euro e poi a fare la fila alla CRAI a pagare il doppio non me ne frega proprio niente. Ma l'ufficio di collocamento tutti i giorni a girare le balle, ma poi qualcuno ci siamo anche posto di lavoro, anche Birello non è il batteriente, Birello, quello che capita, mi parlo di avere un stipendio. Una volta che ho il primo stipendio che sono ufficio, vado immediatamente me la compro, in cosa fatta la pago. Una volta che c'hai lo stipendio fisso, l'entrata fissa ti conviene sì. Proprio visto il Birello, l'altra lì già ho uno. E ti giuro, guarda, non è che io, per carità, meno, ma io ho dato e sono arrivato, grazie a Dio, non gli ho fatto i miei 41 anni di lavoro. Ma questo lavorava santuariamente, me lo ricordo perché l'ho conosciuto quando abitavo via Pasqua. Lavorava santuariamente, proprio a giornate così. L'ho visto da poco, sono andato giù a portare la macchina a cambiare l'olio da Walter in via Gabriele Annunzio, e lui era lì che stava facendo appunto, tagliando alla macchina. Ha detto, cazzo, la macchina l'hai comprata? Sì, adesso sì, perché... Questo Birello è entrato. Birello lì al coso, come si chiama? La Peroce, cosa c'è lì? Un alberghiero, al posto di uno che è andato in pensione. E come hai fatto? Erano gradatori, anni, mi hanno chiamato a fare colloquio, prima mi hanno fatto il contratto provvisorio, adesso sono entrato fisso, e ho preso, a razza di guru. Meno male. Dice addirittura anche il coso, la casa per il custode di quella scuola, lo sapete? Di dove c'era l'alberghiero. Io ho fatto dei lavori insieme ad Daniele, avevamo installato tutte le lampade nuove e poi un altro impianto avevamo fatto, perché l'impianto avevamo fatto cacca, ma l'avevamo fatto. Tutti i fili della pratica, dovevi vedere che schifo che era, solo a toccarlo. E lì attaccata con la scuola c'è anche addirittura il casseggiato di custode, quindi però quello è erba della provincia, capito? Lì bisogna avere in corso in provincia, bisogna avere come quel paracuro che c'è su, dove c'era la brighiera prima, quello è entrato in corso, è stato quello che c'era un motore di 50, adesso ormai ce ne ha tre, ma se lo possiamo toccare anche via. Ma perché non me la serra secca? Cosa già? Alberghiero, non me la serra secca, non l'ho spostata. No, si è diplomata mia figlia alla Teloce, all'alberghiero già. Sì, già è un anno. E i primi tre anni era lì a Coso, a Serra Secca. Poi mia figlia è andata alla Teloce, quindi sto parlando di un sacco di anni. Ed è bello anche quell'istituto. Ma la Teloce dove? La Teloce a Santa Maria di Pisa, giù dove c'è il coso del... passa un treno lì, mi pare, vicino, non so, forse nella zona dove abita Graziano. Perché lì c'è lo scientifico, c'è mio figlio lì? Però l'alberghiero non sapevo che ci fosse. Sì, c'è anche l'alberghiero, è bello pure. E mia figlia si è diplomata lì. Gli ultimi due anni li ha fatti lì. I primi tre anni ha fatto la Serra Secca, poi è andata alla Teloce, si è diplomata lì. È molto bello quell'istituto, anche perché è nuovo, capite, nuovo, alberghiero quello di Serra Secca è che agenda a pezzi. No, non so neanche cosa ci sia lì, se c'è qualche altro istituto, qualche altra cosa, niente ne sai tu, Antonè. Poi la scuola, ma non mi ricordo che che cos'è la verità? C'è tanti che ha il fidanzato via Vecchia, c'è, che in quella scuola, ma non mi ricordo che cos'è. Poi gli avevi dove c'era la Bevia di Serra Secca da ridere. Prima di trasferirsi gli avevano portato via tutto quello che c'era, avevano comprato la veste nuova, hanno fatto il Raus e poi ci hanno messo il questore dopo 6 mesi. Quindi ci hanno fatto la via tutte le bottiglie di spumante, poi c'erano pochi di carne, tutto ci hanno allegato via. Dopodiché ci hanno messo il costone. Signor Casino, che fai? Apparenti ti affarrei, mi sa che... I televisori di camera dove si muove. Adesso l'ha abbassato, vabbè. Cos'è questa cosa? Il televisore che succede in camera dove si muove. Ho capito. Io ero ancora convinto che fosse di essere la secca. E dopo si sta sbagliando Claudio. Pensare che da ragazza andava in crociera. Ehi, dovevamo da Mario noi lì al circolo. Siamo tutta la mattina con Franco per carità. No, già, è già tanto tempo. Aria, tu c'ha 32 anni, 32 novembre fa. Capo, fatti lo conto, due cant'anni, cant'anni già. E gli ultimi 2 anni lei li ha fatti lì alla Teloccia. Mi ricordo perché andava, c'era il motorino e andava in moto a scuola, capito? Quindi no, ma è così, ma c'è ancora lì l'alberghiero, non c'è più a Serra Secca, capito? No, lui Tarito, cosa che si batte la via, che non mi va tenuta in vita gioia, uno che ho conosciuto quando abitavo in via Pasqua. È entrato Bivello a 50 anni, compreso. Come mai? Ah, piuttosto così. Conosco anche una io, ma vabbè, me la dico, è entrata di ruolo, brutto, bidella di ruolo, non ando capisci. Questo non è di ruolo, non è di ruolo, è entrato l'anno scorso, mi ha detto, siccome l'ho visto con la macchina, insomma, una macchinetta seminuova ed era sempre a piedi, a volte mi fermava anche a dare le sue sigarette, quindi l'ho visto lì dal meccanico, a volte via D'Annunzio, e quindi gli ho detto, pure la macchina da comparato, ma la fanno stai? Sì, perché non lo sapevi, non lo so punta io, non ci abito più qua, non ci siamo più visti. E me l'ha raccontato, capito? È in corsi burro va via sicuramente. È entrato l'alberghiero, il bidello l'alberghiero. È al posto di Mario che è andato in pensione, Mario Bucca Bucca, non so se l'hai conosciuto. Cosa si dice? A volte già lo conosco di vista, non è che siamo amici e tutto. Perché il mio meccanico è Franco, quello che c'è a fianco. Walter adesso sta lavorando con Rubi. Sì, Rubi sta lavorando con Walter. Sì, beh, Franco è specializzato in quella macchina che avevi tu. E anche in quella nuova che hai, e stai attento, Franco è molto bravo nell'elettronica. Sì, sono tutte e due a fianco. E Rubi è bravo come meccanico, ma quando ha chiuso il fornitore sta lavorando con Walter, capito? Sì, l'ho visto in Chivi, l'ho detto. Un anno è già che è bidello, fa 50 anni, non è piccolino, 48, 50, una cosa del genere, capito? Infatti stavo dicendo Antonello, ci vuole fortuna per entrare a lavorare da grandi. Uno ci vuole, sì, così, tutto lì. Ora, che costore non deve bere, capito? Perché in verità c'è un 7%, quindi perlomeno sono tranquillo. Quando c'è stato 68-88, pare che ho 68-89, però ve ne ammetto, comunque sia c'è una precedenza. Devo solo trovare il buco giusto al momento giusto. E va solo più di più il buco. A cosa già funziona a me? Va elettronicamente, non a telecomando. Tanto, io sono invalido alla birra, capito? Perché ti ripeto, io l'ho conosciuto tra cane di altre persone, quando ero in via Pascoli non ha mai fatto niente in vita sua, lavorava santuariamente, a giornate, così, mi dirà che fa via, si rivi via. E adesso c'è un posto fisso di ruolo, perché me l'ha detto, gli hanno fatto prima il contratto per 3 mesi, e dopo l'hanno passato di ruolo, non penso, senza incontri era. Cos'è che fai tu, sorso? Sembrava la voce di Vannino, Vanni, mi sono sbagliato, qualcuno ha parlato, tutti parlano ma nessuno entra. Poco a polemizzare c'è, quando c'hai fortuna nelle cose, è così, capito già. Anche a me lo conta quanti anni è, in lista, in cosa, eppure non era una mano nessuno, due citi, gaggati, fa niente, è un posto di lavoro che ancora me la sento lavorare, e invece nulla, mi mettono subito in disarmo, e così la smonti una persona, perché se io voglio rifare, e tu non mi dai la possibilità, mi dai un incentivo per campare, ma di cosa devo campare? D'aria! Ah, allora eri due, qualcuno. Ehi, allora, no, mi sembrava la voce di Vannino, che lui ogni tanto interviene così. Capito? E beh, ciò che ha fatto, Nai. Ah, non si può raccogliere. È la musica! Che vicino a casa la mattina quando porta a testa non sa quanto ce n'è quando piove è piena, sono anche bella. Cazzo, già le ho viste al supermercato, non c'è buono comparare a 22 euro. Ma poi a me non piace, a me piacciono le lumache grosse e basta, col sugo piccante, la voce in su, oh, altro non le mangio, le mozzite, le cuccole, nulla. E i lumaconi già mi piacciono, però non spendo soldi queste cose. Le mozzette, mi le volevo comprare perché anche lei ha detto, ma poi prendi le mozzette, oggi mi chiede mai a 22 euro, oggi tu no, a 22 euro che le mozzette non mangi nulla. Ho preso due polpi, 20 euro, 10 euro l'uno, altro le mozzette, so. Claudio, sempre in quel posto là ci sono anche le mozzette a poco prezzo. Che pare che c'era del zio. E a 20-22 sono già, era un'offerta che aveva mia moglie a Piazza dei Segni, le ha viste a 15, cazzo non le ha comprate, belle, mi ha detto, belle, ho le mozzette a 15 euro, e perché non le hai comprate? Non sapevo le volevi, cazzo, ma se sono a 15 con pareggiare, no, il prezzo è buono, è abbordabile, ma a 20-22 già costano tanto. È bella. Tu vai a fare la spesa che è meglio quando esci la mattina. Fai un giro, come faccio io, e prendi il piccio che devi prendere. Porco di piccio, 25 euro la bottiglietta, quella grande però, quella che si può di frutta grande. Sì, lo seggiamo la monta la cassa. Ah, così è. E allora? Sì, no, già, a 20. C'è mia nipote d'Alghero, me lo porta, me l'ha portato l'altro giorno perché lui lavora all'ospedale qua a Sassari. L'altro giorno mi ha telefonato, l'altro giorno e voi, tipo Parigi, da quant'è? A 15, ma piccola, no, no, la bottiglietta dell'acce. Quelle di 25 la stanno, perché sono fuori stagione adesso, danno per quello così tanto. A 15, me l'ha portata, infatti l'ho messa in freezer. Me l'ho selezionata però già, capito già, però sai come si fa, no? Io prendo quei bicchieri piccolini di plastica, capito? Li seleziono, ci metto il cucchiaio alluminio, l'elastico e lo metto in freezer. No, no, io fresca, quando la prendo, prendo, faccio la pasta, mi metto una bottiglietta di quella, la pasta, e via, me la saporo bene. No, non le metto in freezer qua, me la mangio fresca, così. Infatti a 25 mi sembrava troppo cara, se vado a 90 mi sembrava cara. Mica, però sono fuori stagione, è difficile adesso trovarli, questo e quell'altro. No, ragazzo, fuori stagione, la faccio in blu. Cosa fuori stagione? Cosa stavo dicendo? Oh, intera già! Aspetta che spengo, che abbasso sta cosa. Intera, no, già è troppo, io la faccio a, per esempio, esempio, se siamo in tre, metto, faccio il bicchiere quello grande in plastica, no? Quindi in plastica bianchi, e va bene per tre, il condimento per tre. Se siamo in due, quello piccolino, è troppo ciogamosa così già, incazzo, metterci tutto il condimento quello del latte, no, è troppo, io me la seleziono. No, adesso c'è la cremosa, se mi sentite, io qua la faccio così, metto l'olio, ci metto la testa d'aglio, la schiaccio senza tagliarla, le faccio saporire bene l'olio, vabbè la pasta che sta bollendo, le faccio saporire bene l'olio, tolgo l'aglio, metto la pasta, la faccio saltare nella padella e gli aggiungo il riccio. Fatto io. E l'olio sopra la polpa di riccio ci vuole, poi ci metto anche un pochino di prezzemolo tritato, più buono, capito? Già è quella, già è quella, no è troppo, no così è troppo, il succo di frutta, la bottiglietta di succo di frutta ce la metto tutta, se no è troppo ciogamosa, si sente troppo già e poi no, non va bene, capito? No, io me la seleziono, ne ho mi tre cose ne ho. Come si dice, tre bicchierini ancora, poi lo faccio domenica che è riposo mia figlia, lo facciamo in campagna, capito? KK, riprendi Antonè. Io ne aggiungo anche il peperoncino, mi sono dimenticato, si può mettere anche il pepe se vuoi. Pepe nero ci metto già io, perché col peperoncino una volta mi ha fottito che cazzo ci vogliamo mangiare. Allora ci metto il pepe nero, una volta che è condita ci metto un pochino di pepe nero. E va bene così, capito? Proprio come la fanno in ristorante, in radio c'è quella ricetta, quindi seguiamo quella ricetta. Questo profumino. Orecchietta e broccoli stanotte già. Sempre di broccoli io non li mangio, non li ho mai mangiati, non è una cosa che mamma faceva, i cavoli li faceva, ma i broccoli mai. Non li ho mai assaggiati, dico la verità. Ho mangiato la zucca, quella sì, la pasta con la zucca, con la grana. E tra l'altro non l'avevo mai mangiata a casa, l'ho mangiata a casa di Liliana perché non l'avevo mai mangiata, l'ho fatta a Liliana a casa, mi ha invitato una sera a cena e l'ho mangiata lì. Già, le orecchiette con i brocoli, lascia prendere il capo, io il capo lo mangio sia in bianco, in salata che al sugo con il salsiccione, eccetera, o con la salsiccia anche fresca. Ma i broccoli, se tu li salti in padella, così come hai detto tu, aglio, prezzemolo, appena appena di cipolla, li salti e poi condisci le orecchiette, la fine del mondo. La fine del mondo, in bianco, la fine del mondo già. Ma non li ho mai fatti, dico la verità. Devo essere onesto, non l'ho mai mangiato. Forse è una cosa che mamma non gradiva, quindi non la comprava manco per noi. Di solito faceva tutto, però questa cosa del broccoli, che per noi non che mi ricordo io, faceva il capo suffugato, con le olive, poi che si gravò. Già, mi sembra possibile che qua mamma faceva il cavolo, faceva tutto, ma anche i broccoletti, no broccolo grande, broccoletti, sono teneri, capito? Broccoletti verdi, tu li tagli a pezzettini, togli la parte del gambo duro, li salti in padella con un po' di olio, cipolla, aglio, prezzemolo. E poi fai il condimento con orecchiette, però e non pennette o pasta lunga, con le orecchiette, ma a fine del mondo sono buonissime, a me piacciono un bel, infatti sento il profumino, mi sono alzato e sto preparando quel condimento lì per fare le orecchiette, che l'aria esce alle 6:30 oggi, pensavo usciva alle 10, invece esce alle 6:30 perché è entrata alle 11, quindi sta per arrivare. E stanotte allora mangiamo così, assediamo. A me lo vento che fa, bella Raipoli, e su Maria Gare. Raffiche di vento allucinanti ci sono qua, le becce, evidentemente da te tocca poco. Luca, vento ne hai tu? Luca! Tutti molto insomma. Ma non è facile i piatti, devo avere gente, mi sembra solo non mi piace. C'è gente già che faccio, non mi ha mai, non sono mai morto di fame, io i piatti già li so fare, sono più cucinati, quindi. Ehi, ho vissuto per quasi 2 anni io a Cagliari da solo. Da solo, eravamo in 3, ma non toccavano nulla. Tu immagina che io quando ho lavorato alla Saras a Cagliari eravamo in 3, c'erano allora uno era di Olbia, l'altro era vicino, quindi sempre provincia di Sassari. Ma io avevo l'ordine dal responsabile, a mezzogiorno io attaccavo, ma saltavo la ringhiera, perché c'avevo la caccia proprio attaccata alla Saras, saltavo la ringhiera, ma ho fatto uno spazietto per passare, andavo, mettevo l'acqua, il condimento l'avevo già preparato, cucinavo sempre io, stavo quasi rubollo in tagliami, le dita si leccavano. Quindi cucinavo sempre io, sempre, qualsiasi cosa, preparavo il sugo dalla notte, perché il primo periodo tagliavo di stabilimento, o andavano in mensa, o a mangiare mondezza, o si portavano a mangiare col pigiatino, ah non siamo scemi, ma ci sono io, siamo attaccati, ma prepariamo la cosa dalla notte, il sugo, vogliamo mangiare una pasta, a quanto stai, accendi la sigaretta e è già pronta a tavola, perché noi avevamo un'ora, poi ci prendevamo sempre un'ora e mezzo, capito? Mangiavamo tranquillamente un piatto di pasta calda, pure la carne la preparavo in fretta, veloce, la carne di cavallo, me la mettevo nel condimento, arrivavo la padella, via, io l'insalata, tu prepara l'insalata veloce, mangiavamo sempre, capito? Perché mangiare panini quando sei così fuori, cazzo ti rovina lo stomaco. Vabbè, ma che mi prendo ti metta forse una bistecca, una fettina, un po' di insalata, allora è come se mangiassi normalmente, dai. Diciamo, c'è sempre il pane tutti i giorni, capito? Io tutti i giorni non la facevo la pasta, tutti i giorni a pranzo non facevamo la pasta, la notte sì, facevamo delle belle cene, però così veloce no, una bella insalata quando era l'estate, con tutto dentro, pomodori, citrioli, tutto ci mettevo, capito? Pure preparavo l'insalata di riso dalla sera, la mettevo in frigo, mettevo il piatto, ci mettevo la maionese o chi voleva l'olio, ma fatta, beh, è vero, roba sostanziosa, perché mangiare tutti i giorni panini è un casino, capito? Io quando ero trasfertista mai mangiavo panini in cantiere, mai, o mi preparavo, se non potevo uscire mi preparavo il pigiattino e mi portavo quelli gnocchetti al sugo freschi, freddi, la pasta fredda mi preparavo, quella basilico, pomodorino eccetera, oppure mi preparavo per dire le polpette, le costolette impanate, cose così, però mangiavo, non me portavo panini. Beh certo, quando ho la possibilità di cucinare, sempre meglio cucinare. Vabbè, ma un panino te lo mangi sempre, però a pranzo, un panino più te lo mangi, io ne mangio mezzo, ma perché sono obbligato a farlo. Già, io pane non ne stiamo manco comprando. Non ne stiamo manco comprando pane. A volte l'aria la sera porta il pane pizza, magari che è avanzato, capito? Oppure qualche traccio di pizza, l'altra volta ha portato polpette, cotolette, hamburger, ne porta poco di cose, però pane proprio poco ne stiamo mangiando noi. Io mangio un mezzo panino svoltato alla bollica a pranzo e a cena, un mezzo panino a pranzo e un mezzo panino a cena, un panino al giorno mangio. Mangio molta insalata, non mangio vivo, faccio un'insalata a fettina, un'insalata di pesce, posso dire, oppure mangio peperoni, mangio melanzane, però sempre con mezzo panino. E vabbè, tu lo stesso già c'hai una buona mano alla cucina, capito? No, io so fare tutto già, grazie a Dio. Posso stare anche da solo, non c'è problema. Tu immaginati, tutta l'estate, ad esempio, arrivo a Redi, no, tu vuoi il vento che c'è, no, porca miseria, guarda che di vento forte ci sono, non so che vento è, fa rigreccare. Antone, rientrato, sì. Io cucino. E la stessa cosa, ma ti sto parlando un po' di roba. Anche in gran piccola, ci sono, cucinavo sempre io. Sì, beh, a me mettermi a cucinare le sfuntighe perché non mi piace. Però se sono a casa mia, che ho la possibilità di, come è successo quest'estate, di cucinare, allora faccio io. Magari non mi vidi, che la vuoi cotta, che la vuoi cruda, che la vuoi guido, che la vuoi guidato. No. Ma non mi invita, non mi siedo, se devo dare una mano la do, però non mi dire di mettere a cucinare perché non cucino niente. No, io cucino, se c'è il divino mi porto sempre il panino vicino alla gran piccola e mi metto tutti i riccioli, ecco, perché sai cosa è successo per più volte? Che mi lasciavano solo il fegato e cose, allora ho imparato, prima mi servivo e poi servo agli altri, perché non è giusto che gli altri si mangiano tutta la roba migliore e anche ti lasciano la scatola. Ti porto il panino e me lo faccio, mi metto i ricciolini, i canaguri. Magari che tu video che mi hai mandato, Antonio. Mandala anche a me, Antonello, carogna. Antonio Giuscia, magari la moglie. Ehi. Non aspetta già che te lo mando io, cazzo mia Giuscia. Antonello, ma non hai visto dove abitavi tu, i casini che stava succedendo? Già lo so già. Possono prendere in culo. L'altra sera c'erano i conti, i carabinieri, di tutti i tipi. Stavo aspettando d'ora, di tutto stanno facendo lì. Non passa le 8 di sera, stanno chiudendo tutti i negozi. Perché non si può più vendere nulla. Se c'è la paura anche loro. Ma quelli cattivi sono i nigeriani, perché senegalesi non hanno mai fatto male a nessuno. Già lo so, ecco. I senegalesi sono in gamba, c'è anche il bar di buco che pare sassarese. Ma ancora vivo è? Ehi, non lo so, è morto il fratello, quello giovane, è venuto un tumore, me lo stava raccontando lui, che era mancato perché era andato in Senegal a portare il fratello, hanno fatto la colletta e l'hanno portato in Senegal perché aveva un tumore ed è morto là, capito? Quello giovane che ci aveva portato lui qua. No, infatti è morto uno. E praticamente l'hanno portato in Senegal, capito? Quindi lui è andato in Senegal con i parenti, eccetera, eccetera, c'è stato un po' là. E cosa vuoi fare? Guarda, ce lo vuoi fare? Io se ero stato un pagliaccio di guadagno, io ero stato ricco, ma di figura. E poi ci vanno tutti chi dà. Come si usa così? Londi, zivi, snorti, tutti. Come vuoi mandare? Capito? E se non ce la fanno a vivere, devi aiutare. Mandare quello che buca di tuo marito. Io non riesco a mandare. No, vai a mandare il video porno, Antonio, a me, non me la fotte nuda. Cazzo mi stai mandando? Mi hai mandato un poco di chi ti goci. Aspetta, quando la su sa. Mandaglielo tu. Se non riesco a mandarglielo, capo. Sto cazzo di telefono sta diventando pazzo. Aspetta, vedi. Antonello c'ha le mani cancarate, lo devo mandare. No, io veramente non riesco. Una roba da matti, cazzo. Eccolo qua, aspetta, forse ci riesco già, aspetta. Eccolo qua. Ecco, te l'ho mandato già. Ti sta arrivando il maiale adesso. Ora. Chiamalo proprio il maialetto. Sì, l'avevo già visto questo. Ecco, tutte le cose me le mandate. Roberto, per i capelli, l'altra volta dalle 11 fino a mezzanotte e mezza rimasta. A mandarmi così. Ui. Di tutto mi ha mandato. Come mai? Perché non sai cosa fare. Mi ha mandato ogni tanto arrivava un bip fino a mezzanotte e mezza, figurati. Eravamo assieme al bar fino alle 9 e mezzo. Io ho preso le pizzette. E la sera che era morta la moglie di Oggiano, capito? E sono andato via al coso, alla Vittoria. C'era lui, dice, se vuoi entrare nel compagno lui, no, gli ho detto, già stando via adesso, ho detto che è tardi io. E poi alle 11 ha cominciato a mandarmi i cosi, questi cosi, quelli li faccio vedere di persona, là. Così quando ci vediamo andare a cosa, da Nico. Poi dato lavoro, me l'ha mandato un centinaio, bisogna che elimino per forza uno per uno, se no mi riempie la memoria e si blocca attorno al telefono. 2 minuti. Visto è Gianni a Giuscia. Ma valengo visto, cazzo, se è tappato, non c'è manco i dati, la mia cucciuccia si è uscita da San Basso. Cazzo, la mano si fa picchiare così. Ma tanto è, ma tu l'hai firmato? Non so chi l'ha firmato. Ma vero? Chi è? Chi è questo ombrello? È un bel posto. Cos'è, sono taccetto? Vabbè, capo e moglie. Visto, dai. Hai sentito quella domanda a Donato? Com'è? Sta a posto? Ho finito adesso, va. Oh, va bene, va bene. Ascolta, bene regolata la radio? Che, da quando l'ho messa a posto non l'ho toccata. Hai fatto bene a non toccarla, lasciala così. Così è. Allora, che mi usci? Va bene, che bene. Buonasera, Massimiliano. Ehi, ciao già, buonasera. E allora? Mi diciamo. Noi sì, e tu? Anche io, anche io. Sono un po' più bene. Si l'acqua non vivo, vivo. Oh, yeah. No, non si può di nulla, ci tocchiamo, ma... Certo, la vita è... Lui, tutta... su un filo siamo. La tua vista la fa più fisica, te lo vedete. Lavoro, certo, è rimasto secco. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Quello, siamo di passaggio già. Viviamo giorno per giorno. Quando muo come si buca pure a me, cosa me ne appunto. Vabbè, tanto. Quella è la nostra vita. Non si è ancora trovato l'elisir per vivere, ecco, per vivere all'infinito. Ci vuole l'elisir per pagare tasse. Davvero, beh. Vabbè, com'è questa radio? Va bene, già. Sì, Massimo, va bene. Già parlo, allora. Avanti, capo di Bugnetti. È ottimo, non buono, te l'ho già detto, va bene. Io non so qual è il Mickey King qua, aspetta a vedere che... Aspetta, cos'è successo così? Nulla. Nulla? No. È così, questo passaggio? Così mi sembra sia più bassa. Ecco qua, allora, questo è il Mickey King, no? Va bene, ok. Tu da sei la luci. E la lasciamo così, andiamo bene. Stiamo portando una sparatura che è successa al corso. Negri contro Sassolini. Cos'è già? Che su Facebook hanno messo una sparatura che è successa al corso. Dove abitava Alicio. Negri contro Sassolini. E non la rimorchi ancora. Ma se mi dà al corso si può più andare. È invaso. Se ne sono tutti bugiardi. Lo so, è un casino. È un casino nero. Va bene che ci bisogna tutta questa salivice, non si può più passare a buio. Oh yeah. Stanno affittando case perché le affittano a 100 euro a testa. Ci muove neanche il viti dentro una casa. Oh yeah. Perché abitare è un problema, soprattutto non per i grandi ma per i bambini, capito? È un problema grande. Va bene, dai, io mi assento, mi faccio una bella doccia e magari rientro dopo, dai. Avanti, là. Kappa kappa, Massiglia. Va bene, va bene. E che ore sono? Ormai ci sono mucchio. Che risetti, insomma. Va bene, già va bene, dai. Se vuoi ci aggiorniamo dopo. Vai, Antone. Ciao, Massimiliano, per la doccia, ci sentiamo. Stammi bene. È arrivato Daniele, è arrivato, dove c'è Giovanna, e difende i casini con un cane. Oh yeah, in grepa siti. Ok, guarda che ho quei due apparatini da vendere, se interessa qualche d'uno, 50 euro l'uno, solo che il 360 è senza lo smitter, però dovrebbe funzionare, credo, non lo so, ok? Sì, è una similia, già ho le foto, va bene. Mi ha anche fatto un California, sta vendendo un coso, un magno. Un magno? E di che è un magno? Franco. Ma il suo è? Sì, No, non comprano da baracchino, non li voglio già. Tu? Assolutamente. Baracchino che è dentro l'armadio ce n'è uno solo. E basta e avanza. A parte la LAN 48 che non si tocca. Ma lì c'è il mostro che non c'è il magno che tenga. Lì c'è il Cobra. C'è l'SDX con la versione a 100 watt che lui... Non ci sono soldi a comprarlo quello. Non ci sono soldi a comprarlo. L'unico baracchino del centro armati. Gli altri è il DAC, vabbè, il DAC è mitico. Altri baracchini già non compro. Ma compro che tanto non li uso. Non c'ho posto a me metterlo è una rottura di palle. In campagna quello vabbè, vabbè, però anche in campagna radio gemella di questa. Anche già ce l'ho la lamparantotta e non è mai sito la plumilla, che va bene, ma non lo uso mai, voi ce l'hai per macchina, se una macchina nuova che si può con la lamparantotta, cioè lui. Ma senti capigiano, non toccare niente, lasciala stare così la macchina, tra 5-6 anni allora ne puoi parlare, adesso lasciala stare così, cosa... No, no, il mio è originale, c'ha quasi 10 watt, 8 watt e basta, l'unica cosa che ho fatto con Gigi, aveva tirato appena appena i watt e basta, è originale, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, dentro la busta ancora, l'altra volta l'avevo attaccato con l'MVP5, esce un bel bene, ma si cobra... Il cobra Guru Darner e l'MVP5 è una cosa allucinante. Tu immagini che in banda da 3 da più volte del 4,40. Ah vero, hai detto l'attimo là. Ehi, ehi, è come tu, il mitico tuo. Questa è la modulazione che piace a me. Tu stai usando il Galaxy, no? Cava, cava. E tu ne puoi attaccare 100. Escono tutti bene, però questo, te l'ho sempre detto, dall'inizio. Questo abbinamento a doppio con la tua modulazione, bella, forte, squillante, bella, rimbombante, presente, c'ha tutto quello che serve. Motopompa! Sì, a pompare bisogna pompare, come si faceva una volta. Ui, ui. Sì, anche io già, non è che... Già ne ho baracchi, ce l'ho dato 87, il Saturneco, il 2009 con il 4000 l'FM500S ciò che c'ho a casa di Giovanna, quindi avevo gli baracchini, ma se avanzano. No Antonio, io baracchini sono dentro l'armadio, niente baracchini, non mi va perché prendono colpi, la ricezione non è come quella, io sono abituato a queste, uso, continuo a usare vita naturale durante queste, tabù. 4.30 e 4.40. 4.40 mi ha creato problemi di nuovo, un relè, fortunatamente, sentendo uno e l'altro come fare perché non ce n'era, così un relè normale. Pompeggiato, fatto e sono riuscito a farlo andare mentre Massimiliano, capito? E siamo riusciti a farlo andare, siamo ogni tanto Wittu si blocca, però adesso sembra tutto a posto perché revisionato, c'era questo lui da sostituire, è stato fatto, controllate tutte le saldature, c'erano poco saldature fredde, sant'Antonio mio, non c'era più stagno, proprio consumato lo stagno, proprio l'usura della radio si vede. E diventa opaco, diventa, sì, lo si nota subito, così c'è il televisore di Giovanna, bisogna che lo apro di nuovo, solo che c'era un vento, e non farlo interrarsi per forza, qua su non lo posso, ti ha messo a poco, io avevo il CD, di cui volevo il vecchio grande, devo prendere il circuito alimentatore e saldarlo tutto, togliere lo stagno vecchio e metterci il nuovo, se voglio che vada bene, se no, io bevo cacioletto, erano pazzi. Attenzione Claudio, mi ascolti? Io dico che ti ascolto. Sto qua al 48, cambio. Questa è una bella bestiolina. E anche io il Colt qua, il Cooper Colt. È poco bomba, capisci quanto bomba c'è dai. Vanno bene, ma a casa già non fa, a casa non fa, per l'ascolto non fa, fate un casino niente. No, a me me l'ha tutta la i circuiti stampati, li ha tutti tolti, tutti puliti con la telina Gavino, con gli altri Massimiliano, tutti tolti, tutti puliti con la telina, tutti ripresi punto per punto, non c'era più stagno da nessuna parte. in tutti di lei non c'era più stagno. Tutte riprese, tutte le saldature, tolto stagno vecchio con la spira a stagno, tutte rifatte, tutte le saldature nuove, tutto, è cambiato le lei, capito? Poi il resto era già stata tutta revisionata, quindi adesso è a posto la radio. Però ogni tanto gli viene a che macchini, o un relè, o una commutazione, o quello, quell'altro, adesso è tutta revisionata, tutta bella pulita, ed è a posto. La dice, dovrà fermare la biglietta da un po' vaccone. Pagava, poi adesso mi accendo le luci con le blu della stazione, sono un po' che non le accendo. Prima ci tenevo tutte le cose. Avevo fatto tutto l'impianto con le luci blu, qua. Troppo figa la stazione con le luci blu, te la vado. Sì, già che sono al telefono. Attenzione Claudio, mi ascolti, cambio. Aspetta Gianni che sono al telefono un attimino con Mariolino, arrivo subito. Cavagala. Hola. Prova. 1, 2, 3, prova. Ah, Jet, arrivo subito. Prova radio. Radio. Cambio. Mettiamo in moto tutto. Dimmi Gianni. Volevo sapere se ti piaceva la stazione accesa. No, mi hai mandato il coso. Allora il telefono, aspetta che la guardo. Sì, guarda, è tutto acceso. Il telefono in passione io. Adesso non mi fa vedere il messaggio, chat, uno, messaggio uno, non me lo fa vedere. Se non fa vedere quello che ti ho mandato io. No. Boh, no, vabbè, dopo te lo apro, lo fa anche a me a volte. Ma sai a me cosa mi fa? A volte il telefono, sto parlando con un amico, mi interrompe la telefonata e mi chiama un altro amico che io non ho chiamato, capito? Uno della rubrica. E ma non faccio a duro che non fa mi davo più. E non sanno più il telefono. No, mi adesso me la... è bella ordinata, è tutto chiuso. Già va bene. Ottimo per la truppa. E vedi il Galaxy così da solo, col microfono, e va bene, va benissimo, perché quello è grande, deve arieggiare. Dietro è aperto il mobile? Sì, aperto. Non ne ho fatto mettere il pannello, ma lo volevo mettere, ma dovete lasciarlo aperto per arieggiare bene gli apparecchi. No, è stato bene. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, ma la grande, così prende aria. E allora? Ah, Rattapignano oggi non è entrato, deve essere ha trovato donna. Magari, che la trovi e ce la porti. Sì che ce l'ha, la plantavolta. No, ha detto si è lasciato perché le costa troppo stare andando e tornando, sta cercando una di quartiere. Ah, così è. Cavagala. Allora, ecco, mi costa troppo andare a Plattamona, quindi sto cercando una di quartiere. Adesso mi ha detto che c'è di fronte a lui una tardona, una zittella, se la sta occhiando. Ma mi hanno mandato la rosa dell'amicizia. Oh, gli hanno mandato i bocchi di che c'è cuore, rose, preghiere, io. Sì. Mi ha detto che già. È possibile che da te non ce ne sia. E vabbè, io sono sdraiato, Nicola. Non è che sto pensando al vento, la verità. Ma magari quando sono andato a tirare sulla serrata un pochino c'era, ma non molto. No, stasera, primo pomeriggio non ce n'è. Adesso c'è. No, vabbè, io ho la finestra aperta, sono qua nella stanza. Infatti c'è la televisione accesa, ma anche spenta, che tanto. Però poi dentro Gherangheva è finito. Ma c'è il telegiornale, me lo guardo stasera. Oh, iaia, moto pompa. No, un tesorino è venuto qua, ma che ore sono? Le 7.25 sono già. No, il mio mi sta guardando da lontano, che è quel gatto lì, sotto la TV, nella brandina. Anzi, l'ho comprato la brandina nuova. Non ce l'ha più il coso, quello, il lettino, la brandina proprio. Beh, c'erano i piedi troppo alti. Questa non saltava per salire. Ha detto due lì e me le faccio. Sono andato a Roberto, mi ha tagliato i piedi, me li ha fatti più bassi, in modo che lui possa salire tranquillamente. Mi ha messo i gommini sotto. Bellissimo lavoro. Ho preso lì a Predania, da quello che c'è vicino al Zoomarket. Vicino? Come si chiama? Zoomarket. Oh, Polo Market, non lo so, Polo c'era uno che era via Prunistè da prima, ma non so se sia lui. No, andando con Furrama lì, con la batteria. Ah, ho capito, dopo mi servo io. Acquazzò, lì l'ho presa. Quanto costava? 70 euro, ma l'ha fatta a 60. E io ho fatto il colpo che ho pagato la gabbia delle cavie così. Però è enorme, grande, enorme. Cazzo, già, ma non si può comprare nulla. Vabbè. Allucinante. No, ci sta comodo. Però mi sono fatto fare i cuscini laterali da sotto, perché li appoggiava la testa, quando si corica nel bordo l'appoggia. Fermo! Qua ti stai moccicando la zampa. Nel bordo c'è il ferro, capito? Allora gli ho fatto fare intondo una sorta di cuscino in gomma a piuma tutta, capito? Potevi comprare anche quegli affari che si mettono nei manubri delle moto, se le presenti, quelli con musica. Ah, quegli affari. Ma poi non piega già, perché questo è pieghevole, capito? Come l'altra volta siamo andati al Ghero 3 giorni e me l'ho portato perché eravamo lì nella casa al Ghero. E l'ho piegata, capito? Per mettere in macchina. Ma Tesi non è coerente con quello che fa, un po' sta nella sua cuccia, un po' va nel divano, un po' va sul letto, insomma, va a tutte le parti, non è, fa tutta la notte girando, poi alla fine viene e dorme con me, fa sempre così, si gira tutto, poi prima la poltrona, poi il letto, poi qua, poi là, poi non è fisso facendo le cose, dai. Prima lo usava un bel il piumone, quello gonfio, quello grosso, là, e si coricava lì. Adesso lo sta usando molto meno, ma d'inverno lo usa, lo sai perché? Perché c'è il termosifone, lì c'è caldo. Sì, ho comprato 2 plaid dai cinesi, a Pedamiel, da Grossi, per l'inverno, li ho già preparati, sono già tutti, lui vuole quello. Perché lo prende con la zampa e se lo mette tutto sopra. No, Filippo sta molto sdraiato nella brandina, sta tantissimo, sta tutto il giorno coricato lì. Poi si alza, si fa un giro per la casa, poi va e si torna a coricare, capito? Perché la notte non sta mangiando quasi il doppio a pranzo, perché stava diventando troppo grasso. Stava già superando i 30, allora l'ultima volta l'ho portato al veterinario a fare le coccomo, si chiama, quella visita lì, mi ha detto un po' a tacchetto perché è troppo pesante, e adesso è sceso nuovamente a 28 e mezzo, quasi 29, capito? Perciò lui la sera sa che non deve mangiare, si curica e dorme. Poi si alza, viene, quando noi ci andiamo a coricarci vuole prendere la brandina e metterli vicino al letto. E sta tutta la notte lì. Tu pesa 10 kg più di Tyson, ci pensi? Grosso è già, grosso. Non so se ti ho mandato la foto che gli ho fatto seduto nel poggiolo, ma è una cosa impressionante. Non so se ce l'ho te la mando. Quello fa più grosso di quello francese, da quello inglese, è vero? Sì, il doppio fa. Non ce n'è una sdraiata proprio qua nella casa ad Alghero. Non so se ce l'ho. No, ammilami. Forse è questa, vediamo se è questa. No, qua è dentro casa, seduto. Ti posso mandare anche questa. Guarda, anche grosso, ma ne ho un'altra che non riesco a trovare, che si vede meglio, è bello, qua è seduto vicino all'ingresso di casa. È un toro, è basso ma grosso. È basso perché è piegato, l'altra che è seduta nel poggiolo non è basso, è bello dritto, seduto. Io ne ho una di te, che pare fantoso, non c'è più la possibilità. Ciao Capri, mi ti sto mandando l'altra, che è seduto nel poggiolo. Si vede che è più messo bene, dai. No, sta bene già, grazie a Dio, guarda, non mi posso lamentare. L'altra volta l'ho portato, ho detto veterinario, complimenti, il cane sta bene. però sta ingrassando troppo, allora abbiamo deciso di darlo a mangiare una volta sola. E beh, Capri 2, sì, va bene la radio, però c'è un'alternata sotto, Capri, va bene, sì, il Turner più 2, 251, la serie 251, quello cromato, che ho io sulla linea di Kraft. Doppio rumore, lo senti a Gianni Capri 2? È molto basso, qualcosa sta uscendo, comportatelo. Non capisco cosa dice, sento che parla ma non si comprende niente. No, ma io infatti quando sono a casa non lo porta più mia moglie. Ilaria ogni tanto lo porta, perché tira troppo tira. E quindi c'è il rischio che ti faccia cadere, capito? Kappa. E anche qua stai arrivando basso, hai già, non sei col tuo segnale, sei Santiago 9, quindi sicuramente da doppio rumore arrivi più basso. Basso ti arriva già a te. Non riesco a capire cosa dice. Comunque salutamelo, però io non lo sento bassissimo. Tre vatti. E catalogo. Tony Gavura. Vedi un po' già la tira fuori la lingua, ma ogni tanto adesso lì si siede al fresco lui d'estate, capito? Sì, Capri, quella radio io te l'ho detto, devi fare, devi togliertela a mezzo ai piedi, ti recuperi quei soldi e se abili a luci, tanto quel difetto è così e rimane così già. C'è niente da fare, io la mia mi l'ho tutta revisionata di nuovo, tutta rimessa a posto, c'era un orecchio che non commutava, con il cognato di Massimiliano che c'è al laboratorio con l'attrezzatura, mi ha tolto il relè, fatto quel lavoro e rimesso la valetta in carreggiata. Se no li usi la radio è un casino, caro Gianni, è un casino. Vabbè, avanti doppio. Guarda cosa fa con la gabbia delle capie. E cosa fa? Le sta vicino? E guarda che ho fatto filmato. Ah, eccolo qua. Ci vuole dritto, fa come dittare. Allora le tocca. Fidalo. No, non c'ho paura, una volta ce l'avevo in mano, mi ha strappato il pelo con la bocca. No, Filippo passa avanti ai gatti perché una volta a Giumai lo prende, però sai, il gatto è sempre molto, molto pericoloso, da una zampata dietro dell'occhio. E allora l'ho fatto avvicinare piano piano e perlomeno quelli che ci sono giù le passa vicino e non le fa niente. Però altri gatti che non conosce lì buon fatto, capito? E vabbè, ma quando ce l'hai a casa così già non succede niente. Poi sono dentro la gabbia loro. Sì, ma infatti lì come apro la porta del terrazzo e subito esce fuori, capito? A controllare se ci sono. E allora? E poi se le vede fuori che sono fuori della casetta che stanno mangiando e si tira in alto la gabbia. E io forse io lo faccio anche per gelosia. Guarda questo. Nara Capri, Nara. No, non sei uscito l'uomo. Abbassa il microfono, abbassa. E cosa fai? Ma la faccio lì, è sul tavolo. Già. Sì, del capo sei sul tavolo. Ah, ecco, ce l'hai sul tavolo e dovrebbe i denti. Ma perché ci sei tu però? Gianni Capri 2, abbassa quel microfono. Ok, nuda, abbassa. E beh, i palini usese. Ma non li tocca già, perché ci sei tu però. E beh, adesso ti faccio vedere la macchina che mi ho comprato. Panda a fa buoni e clai. Andiamo a fare buoni e clai. Ho fotografato vicino a casa una ballilla proprio, se la ingrandisci c'era scritta ballilla. Già si vede, c'è bisogno di ingrandirla. Quelle macchine queste. Capri, abbassa il microfono. Adesso l'hai abbassato troppo. Adesso l'hai sollevato troppo. Mettilo meno di uno. Non tocca se lasciala stare così. Avanti, doppio rumore, lo senti adesso? Sì, adesso sì. Ciao, Gianni Capri 2. Adesso ti faccio vedere un pesciolino che ho pescato, Claudio. Stai andando a pescare da solo? No, l'ho pescato l'anno scorso. Ah, io magari me l'hai già fatto vedere. Adesso non ci stai andando a pescare, vabbè, non vuoi andare. No, adesso no. Era cosa fa vita di figlio, ma poi me ne puccio così. No, no, sei fatta le malattie, cioè. Quando poi stai bene per fare le cose. E quindi Capri va bene adesso, lascialo così. Perché anche lì ci può essere qualche falso contatto come la mia. Io il cognato Massimiliano me l'ha tutta, mi ha attaccato tutta la pulita della tredina, mi ha rifatto tutte le saldature sui circuiti stampati perché non c'era più stagno. Purtroppo l'usura è quella, capito? L'usura è quella lì, non fa. Bisogna fare una bella manutenzione per questa radio, sennò ti lasciano a piedi. No, ma l'MC80 tienito, se quello che ho trovato io funziona benissimo. Quante l'MC60? Lascialo stare così. Ma cosa hai combinato? Come sei scendo così basso? Ma l'antenna sempre ce l'hai. L'antenna che avevi prima sul tetto sempre ce l'hai. Andare. Però se tu... Cos'è questo rumore? Oh. Attenzione, Capri 2, ascolti il doppio rum che chiama, Gabi. Hola. Sì, controllando io più. Mi ha detto che non si sente l'effetto. Hola. Attenzione, Capri 2, cambi. Ma questa sta uscendo bene adesso, lasciala stare così, non la toccare, no? Oggi vi stai attaccata alla radio. Prima lavoro, tu ancora devi lavorare. Io sono a casa, ma non ci sto attaccata alla radio più come prima. La sera così, quando capita, adesso c'è tra sera già, mettiamo chiacchierando, eccetera. A volte non c'è nessuno, tengo tutto spento, non mi interessa più niente. Io riprendo e vado a portare giù il cane. Tu ce l'hai all'aperto, te la fanno da soli i bisogni, io lo devo portare. Penso che tutti ci tengano il cane, io lo stesso ci tengo, io devo cucare il mangianessina, non so se mi spiego. E vabbè, il mio mangia sempre carne, pasta, oltre le crocchette che sono di prima qualità, quelli che le do. Ma non è quello lì. Ma perché non li vendi, scusa? Perché non te li vendi quei cuccioli? E cosa gli dà per mangiare? Magari ce l'ha già fatta quando tu non l'hai visto. Adesso ti trovi i cuccioletti. Vabbè, sono cose che possono succedere. Ma che mangime li dai? Che marca li dai di mangime? Aspetta che anch'io devo portare il cane. Dai, se ci siete ci sentiamo dopo. Ok, ciao Gianni e ciao Gianni. E chi è in ascolto? A dopo, ciao. Ciao, anch'io vado, dai. Gianni, che marca li dai di mangime? E le dai date tu. Ok, lo so, dispiace perché anche a me mi è morto un gatto e mi è dispiaciuto molto quando è morto. Purtroppo possono succedere queste cose, poi sono molto delicati i molussi. Io lo stesso c'ho un molosso, tu già l'hai visto, tu l'hai visto piccolino, va bene. Lo so, anche il Tyson è così. Vabbè dai, ci sentiamo, io vado a portarlo giù, dai, alle prossimine, magari aspetta Claudio, magari rientra. Ci sentiamo, ciao Gianni, mi ha fatto piacere, fatti sentire. Già, dai, se ci sei ci sentiamo dopo, fate sentire comunque la sera, capito? Ciao!